prima ci va facendo, perché non è altro, adesso cosa la vuoi fare? Non ce n'è la fuori Giuseppe, hai capito? Perché non lo so, non da dove, perché siamo così, dico, ma non sono io, tutti, perché prima se visitavo col vicino andavo a lavorare all'altro vicino ancora, diciamo per due lì, andavo di là e dall'altro, perché non lo so, se è il tuo, tutta la mia vita va bene, tutta la mia vita si poteva permettere a fare dei cambi di vita, comprarsi, insieme alla prima cosa che non mi ricordo, ma non la vuole tutti, poi c'è la vita di macchina, la seconda mano, la vita a fare, bene, che mio padre ti conosce, io che ti parlo in frequenza, perché l'azienda c'è sempre, perché non ce l'avete più col padre? Non ce l'abbiamo più perché dopo la morte di mio padre, il fatto che chi se ne occupava dentro quel locale era mio padre, anche se la licenza era intestata a mia madre, però tutto quanto la Paradan era, chi comandava era mio padre, si occupava delle sigarette, si occupava di fare il coso delle, come si dice, con i gestori delle e rappresentanti delle pipite, tutto quanto era lui che se ne occupava e noi dovevamo prendere gli ordini da lui perché era lui che comandava, capito? E lui che aveva, se era uscito dalla Pani allora, perché prima lavorava nella Pani, ma tanti anni, tanti, e poi abbiamo vinto il concorso e abbiamo preso la stazione, dal 69. Mio padre già mi conosce, gli ho detto, però più che poi che siamo dei ratti e figli hanno diritto, hai capito? E uno ce l'ha buona più diritto perché mio padre era lui, capito? Quindi mi dovevo svegliare, mi dovevo fare, toccare i tasti giusti, i tasti ce ne sono tanti, si tocca, prima uno è sbagliato, poi è sbagliato, sotto l'altro, poi non lo fare, bisogna fare, hai capito? A chi fare gente, anche qualche politico, se ne conoscete, che, non è, che io ce l'ho tanti anni, poi tanto da un giorno all'altro in strada non esiste, Giuseppe. Già, già, politici ne conosceva Babbo, hai capito, politici, però sì, tranquillo, abito, se lo sistemo io, te lo faccio sistemare qua, sistemare là, e invece l'ho butta di dietro, l'ho butta tutte quante le parole. Sì, davanti ti fanno e di dietro ti stanno mettendo in culo, hai capito? E dunque, che parole sono, non ho capito. Dalle ferrovie dello Stato, ecco io qui nel Codopo ci sono tanti anni, anche a fare arrivare una lettera al Ministero, capito, quella lì mi sono trascorsi la roba, hai capito? Noi ci siamo tanti anni, io ci ho lavorato tanti anni, i miei non ci sono più, non mi potete buttare da un giorno all'altro fuori a mettermi, io penso che mi avrebbero tenuto conto, mi capito, perché questa cosa, se tu pianti una cosa se vuoi di Sassari, il Ministero, capito, non lo fa altro, mi dico. Lo so già, però ti ho detto, ci sono tanti problemi, tutto quanto, e poi per una cosa che ha fatto la buona di mio padre, per una cosa, cioè, le banche, sai che le banche sono sanguisuga, perché sono sanguisuga, e dunque per una cosa abbiamo dovuto fare la cosa della cessione e dichiarare fallimento, capito? Ok, tu sei lui però tu no, ecco io già, però tu avresti potuto riaprire, hai capito? Se sei un fratello, tuo padre, guardalo perché se tuo padre non c'entrava nella con te, avresti potuto riaprire tu, riguarda una cosa nuova, capito? Abbiamo un padre, era sta male, avrebbe una scappatoia si trova sempre. Vabbè già, per fare quella cosa lì già, ci vogliono, prima di tutto ci vogliono, e io soli al momento non ne avevo, se no l'avrei ampliato io, ma l'avrei gestito io il locale, capito? No? Non c'erano tanti problemi con io, mio fratello e il resto della mia famiglia, però il fatto che al momento soldi non ce n'erano, e allora hanno preferito fare così, e la loro decisione, siamo d'accordo, l'abbiamo presa tutta quanta la famiglia, di fare la rinuncia dei reni, la rinuncia dei cose, dei beni e salvarci soprattutto dai casini che sono successi, dai. Il culo. Hai capito. Caso Maria, brutto porco. Ok, ma mi ha dato un lugar, ragazzi, io diciamo, perché io, perché ho conoscenze del gente in sé, sono un maniaco, che lo voglio usare da 2 anni, quindi sentimi subito. Hai capito, lo faccio solo con la 50, hai capito? era mi dà quel foto su cui c'ha Pedignale, non qui c'ha tu c'ha Pedignale, sono Giuseppe Pedignale, da solo è andato in casini, forse perché c'è umidità qui, non stavo modulando ancora, perché io ho diciamo ascolto anche nella radio, non è colpa del tuo, perché è andata benissimo, andava, ti ho detto solo che è partito il trasformatore ancora lo caro. E da trasformatore qui, siccome c'è quei fori, qui tutto bucherellato il pannello lì, sicuramente è troppo umido, non so che terrazzo, c'è una commessa qui, non è differente, capito? E, però non, è, non si è bruciata, se ne è modulato, se no ti avrei fatto casino davvero. E, è partito, forse per come si chiama, di umido, hai capito, che è rimasto alimentato, hai capito, e lì ha fatto qualche cosa, fa iniziare che condensatori, come dice il giudice, perché se cambia il trasformatore funziona. Te ti stai pigliando già, guarda che io ti ho fatto un suo casino, mi sei tu che hai fatto tutto, la verità. Io notte quando eri a Balacchino, con il centro di Moro, ha detto che io ti avevo garantito non so che cosa e cosa la gente, si è lamentato. Io l'ho detto a Giuseppe, non ho detto a nessun altro, non ho detto a Balacchino, ho detto a Giuseppe, è successo così così, gli ho detto e si è lamentato, ha detto, infatti gli ha detto si va più di 2 mesi, gli ho detto. Se avesse fatto un difetto l'avrei fatto, ho detto, prima a me, e prima ancora ho detto a Giuseppe, perché sto usando Giuseppe a casa sua. In realtà non mi è successo niente. Queste cose detto, succedono solamente quando vai in corsa, c'è un ritaglio letto senz'altro, e quindi niente. Se tu che ti sei lamentato ieri sera, non io. Io non ti ho detto niente ieri sera, grazie a Dio, già l'hai visto, tanto vedo oggi, non mi sono lamentato, stavo a parlare e basta. Poi tu ti sei lamentato con Pinuccetto ieri notte, e tu ti avevo garantito, cosa del genere, almeno cioè la verità no. Cioè la cosa se tu la compri, se ti fa rispetto la prossima settimana ti puoi anche lamentare, ma dopo che se la usi più di 2 mesi, cosa del genere, che va bene, perché andava bene con gli altri, era veramente bello con l'Ignano, la verità. E quindi mi è dispiaciuto l'altro, no? Bravo che ti abbia fatto un difetto del genere, la verità. L'unica cosa che posso farti detto, io avrei capito i condensatori, vabbè, quella è una cazzata, si possono cambiare, sono 15 euro. E si possono cambiare, ma da salvatore evidentemente c'è umidità, cosa ti ho detto ieri? Evidentemente tu hai avuto qualche problema di umidità in casa tua, elimina tutti gli apparecchi da lì, dall'umido, se no fanno quella fine, cosa ti ho detto ieri? Perché non è possibile che un lineale è fatta così, no? Non esiste, è strano un trasformatore Gianni, capito? Per come la penso io, non lo so, poi magari sono sbagliato, non lo so, io parlo da tecnico, è di molto difficile che ti parta un lineale così, tu figurati se usi un apparecchio per dire un stazione base che c'è per trasformatore all'interno, lo metti all'umido, tu da un tratto piglia di piedi, e lo accendi piglia a buco, e ti lamenti perché c'hai ragione, però non sai cosa potrebbe essere, siccome l'umido che c'è tu, ce l'ha anche mia sorella addirittura a casa sua, che ha usi, io ero di dubbio, infatti Balacchino non glielo a lei, c'è un televisore che quando lo accende diventa viola di colore, tu figurati, tutta strisce, viola e cosa, dopo che scalda, che non c'è il coso, allora riprende a funzionare, dall'umidità, perché c'è il caldo della stufa pellet all'interno della casa che non apre le finestre, automaticamente non sfoga e quindi le crea questo problema. Perché hai capito che come si chiama dei fili, però non è, non ripeto, non è da funziona, c'è cosa che io non vedo a occhio. La commessa, capito, si prova, sono trasferito, pulito, alle tre, c'è sulle goccioline, su quel, sul, come si chiama, che fa la soffitta, su quella bottola. Hai capito, l'ho avuto da pellicciata, la carenza, tutto quello che vuoi, però la condensa c'è perché la stufa, come si chiama, che la camera fredda forma questa cosa, come la mattina mi apro le finestre in alluminio, sono tutte gocciolando, come, e che una cosa può essere successa magari dei turini, siccome a fuori lo sai, però non c'è altro, non è bruciato che io l'ho usato, che non lo so contare gli anni, li so contare benissimo e li so fare lavorare, di chiunque, perché ci sono tanti anni ancora e dipendo sempre anche quanto che ne avevo, che è sempre la questione della stufa, perché andando alla grande, due mesi ce l'avevo, mi giure. Già, dove ti puoi dire, io quando a me Antonello mi ha dato quello là, il V131, l'unica parola che mi ha detto, prima di attaccare al baracchino, farlo riscaldare. E così ho fatto, quando io l'avevo qua, prima lo facevo riscaldare e non gli attaccavo il cavo se quando non era bello caldo, hai capito già? Dunque, io poi, quando me l'ha richiesto, perché mi ha detto, guarda, portami quelle le lineare, perché il padrone me l'ha richiesto, se le portare via. Ho detto, vabbè già, ho detto, Antonio, non ci sono problemi, se lo sto portando. E così ho fatto, ho preso, io l'ho messo dentro una busta e io l'ho portato. Ho detto, te, questo è il solito. Ho detto, a quel prezzo che me lo voleva dare, non l'ho preso. Vabbè, comunque, io gli ho ritornato Antonello e ha continuato a usare le pulle ad attacche. Poi, giustamente, quello che hai detto tu, che c'è connessa, non c'è quella cosa là, non ci può fare niente. E gli apparecchi sono fatti, sono costruiti e ci possono anche essere, ci possono anche guardare, sai? Ma io giuro, perché ho comprato gli altri? Perché so che qui la tua fa quel lavoro, come quest'anno e nell'altro anno. Succede che in inverno che si forma questa roba, magari come da scoperchiato, quindi per scoperchiato, poi c'è poi pure dire, ma che cosa è entra? Perché qui se non accendiamo la tua la mattina noi, si vuole dirlo. Hai capito? Qui la camera è sempre fredda, lei, perlomeno con la coperta elettrica mi accesami, se vuole dire. Ma perché qui non si resiste, magari. Vabbè, si accende la tua, con una quanta cosa sono in fuori a come è andato nel trasformatore, però io non l'ho usato, sono venuto a vedere una certa cosa, guardava tipo fumo e sentivo un po' di odore, però non ci ho fatto caso, ce lo sai a come non sei venuto a casa e niente, poi mi sono passato a fumare era sopra gli inuiti, io pensavo, siccome gli inuiti li ho riparato oggi, ci avrei offerto un'altra cosa e funziona perfettamente. Qui ho detto, tiraggio, questo qualche cosa ha spigliato un po' con questa radio, perché l'hai di noi te l'ha sempre buttato nelle garage a proposito. Niente da fare, ho staccato la spina immediatamente quando mi sono accorto, per eliminare, ho aperto il trasformatore, capito? E se sicuramente lì ha fatto condensa e la tua c'era la mattina, io poi non ero in casa perché ho ieri avevo la giornata, capito, libera, ero a Sassari per fare commissioni, qui, là. Hai capito? Ma c'era, perché ha attaccato la spina? Perché c'era già per chi c'è? Quando sono rientrato, ma non c'era nessuno, capito, visto? Ma spesso mi ha lasciato accedere, è perché non la vedo, molte volte la tiro, molte volte la spesso, non passano altre cose, ma niente, non è colpa di Antonello, ma manco io ne ho colpa a te. Vabbè dai, ok dai già, io ti saluto, dai, arrivate, rimango in quei ti cioè... Ti auguro una buona notte, dai, e ci sentiamo alle prossime, dai. Buon Fulvio. Comunque dimmi una cosa, già, come mi stai ricevendo lì, dove sei tu, già, dare un segnale e controllo. Perfettamente, Santiago di 8, Radio 5, non mi dà problema, già. Hai capito, ne ho frequenza, sono 50 mega, c'ho tutto io mi posso permettere tutto nella vita, hai capito, non ne ho problemi, Giuseppe, hai capito, dell'urinale, già, cosa sta parlando la presenza del due, tu di qualche altro, mi... hai capito, no, non me ne frega nulla, hai capito, parlo così, mi chiedo perché ce l'ho da tanti anni, mio figlio anzi voleva sbarazzarli, ecco, perché te ha questo esigente venerario qua, tu sei una persona molto alta, no? Mio figlio grande è incazzato stasera, anche pure anche rotto. E qualche giorno mi questo forse non devo darmi, come di Norbello, il 440, perché non me ne frega nulla, hai capito? E posso fare quello che voglio, hai capito? Cioè, nella mia famiglia c'ho qualsiasi cosa voglio, papà me la compra. Va bene, dai, già. Di nuovo, dai, ti saluto e già rimango il 40, sì. Già sono qua io. Non vorrei che Giuseppe ti faccia i miei auguri, ti faccio comunque, per il tuo lavoro. Grazie. Avanti, chi era l'altro? Buona Pasqua. Eh? Buona Pasqua, detto. Antone, ma dove sei? A casa solo, perché non volevo essere, boh. Perché non sto uscendo? No, non dovevo andare a Ussi. Sì, a mezzanotte va. No, litigate. Oi, e me fra. Ehi, non litigate. Non stiamo litigando, no, era una questione, siamo tranquilli, non è successo niente, dai. Sì, no, scherzando, dai. Comunque se c'è Gianni ancora un saluto, dai, saluto a Gianni. Alessio e a te Giuseppe. Se fossero quelli i problemi, è l'importante avere la salute tranquilla e avere altri pensieri, è l'importante è mangiare ogni giorno, fra, lo sai, no? Il discorso è quello, pure i baracchini, ce ne può fregare più che a meno. Quello c'hai ragione, 100%, dei baracchini ne possiamo fare a meno, del resto no, è così. Però ho sentito, stavo ascoltando comunque, dai, perché stavo facendo cosa qua, stavo ascoltando. Ma il padre della stazione di Sassi è a posto. Cappa. Allora ci conosciamo noi. Sì, alla grande, fra, alla grande. Sì. Cioè, te l'ho detto, io ho iniziato a lavorare quando avevo 13 anni, quando mi sono ritirato alla scuola, ho fatto sino al 2001, ho sempre lavorato lì dentro, ecco come era il discorso, stasera io avevo con Gianluca il corrottore, gli ho detto, io ho dato un sacco di posti, un bel lavoro agli altri, è la prima cosa che ho fatto, come sono entrati i dipendenti, li ho assicurati tutti, perché li ho assicurati tutti. Preferisco rimanere io senza soldi, però agli altri, ai dipendenti, lì non farli mancare mai niente, ecco. È quello il discorso che eravamo, hai capito? Vai a chiedere un favore tu e ti trovo una scusa perché sei troppo grande, sei qua, sei là e non c'è l'età. E io, quando ti senti dire queste cose così, a te si girano un po' anche le palle, no? Fra, scusando la frase. Tu facevi maniaco, già lo sai. Muto. Dì la verità, che facevi, assumevi solamente ragazze brasiliane polacche solo per andare a fare ciucucciù, lo facevano tutti, a quel periodo, è poco usato. Da un'impresa, per dire, entravi nell'altro, un posto di lavoro entravi nell'altro. Addirittura facevamo la gara a licenziarci per andarci in anche un altro lavoro, l'ho fatto anche io, l'ho fatto queste cose qua. E solo che adesso è diversa la situazione, che si è capovolta. Prima prendevano gli anziani, i più esperti prendevano a lavorare, adesso no. Adesso vogliono i ragazzi perché gli danno il contributo, gli danno questo, gli danno quell'altro. E da 30 a 35 anni nessuno non prendono più gente perché devono pagare i contributi più alti, secondo loro, capito Giuseppe? Il battardo non è quello che non si vuole assumere, il battardo è lo Stato che ha fatto queste leggi. E appunto perciò, ma scusa un attimo fra, però vuoi mettere l'esperienza noi, nostra, quelli di una certa età, con l'esperienza di questi ragazzi, giustamente quello che hai detto tu, per pagare anni di meno la circolazione, giustamente che prendono i ragazzini, perché metà li paga il datore del lavoro e metà li paga lo Stato. Ecco, su quello sono anche d'accordo, perché giustamente l'avrei fatto anch'io, però quello non può mettere l'esperienza nostra, perché noi ci siamo fatti vita e miracolo e culo e compagnia bella dentro quel lavoro lì, capito? L'esperienza che ho io, quel ragazzino non lo può avere. Sì, c'è ragione, al 100% c'è ragione. Guarda, io ti faccio sentire una cosa adesso. Lui, tre anni fa, mi sembra, quasi quattro anni fa, abbiamo perso il lavoro lì, quanto ha chiuso tutto giù da noi, ha chiuso. Abbiamo perso il lavoro e si è fatto sei mesi a casa, non è poco, eh? E si è stati qui senza niente. E poi ha riaperto questo impianto e ha dato l'appalto a una cooperativa di Cagliari, questa, io la chiamo ditta perché io sono dipendente, e questa qua la volevo portare gli operai suoi da su qua, quelli che facevano pulizia industriale a Cagliari facevano, e qua mi hanno detto, dice, i suoi operai sono abilitati, specializzati per lavorare in queste macchine. Dice, ecco, non ci vuole, dice, fare questo lavoro. L'ho portato, gli ha fatto fare il lavoro, tutto quanto. Hanno fermato l'impianto, gli hanno detto, io qua ci voglio personale specializzato, perché si è buttato anche il nostro dirigente, si è buttato. In giro di due giorni ci hanno chiamato, tutti quanti rientrano al lavoro, ci hanno chiamato, perché quelli hanno uno specializzato. Non sapevano portare avanti un impianto, e quell'impianto non è facile portarlo avanti. Giustamente, è per quello che ho fatto l'esempio che dell'anzianità, perché quello che ho fatto io, un ragazzo di 22 anni, 23 anni, non può comprendere con me che io forse la vita l'ho fatta prima di lui, e so cosa c'è e cosa non c'è, e punto. Perciò nell'impianto tuo, tu che ci sei più di 30 anni, non puoi competere, questo ragazzino non può competere con te, perché deve ancora imparare, deve ancora mangiare maccarone, Fricio. Sì, con te non può competere, sicuramente. Con lo Stato sì, e col principale può competere, perché il principale non paga un cavolo, non paga, per quello lì, intanto, non paga. E lo Stato ci guadagna. Appunto, perciò vedi dove c'è la presa per il culo, fra. Il discorso è quello, perché noi li facciamo tutto il servizio completo del lavoro, mandiamo avanti l'attività normale. Chiama un ragazzino e non sa dove andare a prendere i ferri, cosa deve fare, deve mettere uno a prezzo e fargli vedere come si fa il lavoro. È quello il discorso. Il discorso è questo. Il discorso è principale, invece è diverso. Dice, io ti do tempo di 10-20 giorni che devi metterti in riga. Ti devi mettere. Intanto Guido, non si in maglia, non lo vuole licenziare, giustamente anche il dottore, perché non lo vuole licenziare, perché sono licenziati già messi tutto. E ci sta, e c'è quello che è in mezzo al principale. Tanto ci sta guadagnando, è brutto. Guadagnano sì, è brutto, perché hai capito, perché lo Stato le paga tutta quanta la cosa che lui dovrebbe dare, tutti i contributi a te, capito? A te te ne dà di meno, a lui gliele paga intieri, hai capito? Infatti, e poi lo Stato, noi paghiamo, lo paga lo Stato, fatto per carità, con l'altro rodichissimo vendetto. Yeah, per carità. Antonello, ci sei? Buon pugno. Sotto i baffi, esci fuori. Buon pugno. Cappola. Ma già Michele Monte è andato via. Eia, davanti. L'ho detto che stavo facendo quelli che ci... Era in ascolto, dai. Perché, vabbè, dai. E tu, guarda che mi avevi detto che oggi e domani c'è a riposo. Sì, oggi domani mi tocca a riposo, però domani... che mi ha chiamato stasera, cioè, di andare e vado, però vado alle 8 e a mezzogiorno me ne sto andando via, perché ce lo facevo a così, ma ce ne saliamo. Scappa. Giuseppe, bisogna partire anche qualche cosa di più pure, no? Quando ce lo permettono. Poi quando non ce lo permettono partiamo. Caspita, non sapevo vedi, che lì era una cosa. Io guarda, ti dico una cosa, da ragazzo venivamo sempre lì alla stazione a bere e poi anche da sposato ci venivamo spesso. Io qua, io c'ho mio compare che abita a Sorcio, non so se lo conosci, che lavora in ferrovia adesso, qualcosa del che pulisce i treni, Antonello Casula. Antonello Casula, ah sì, che lo conosco. Quello è mio compare, e il figlio è mio figliuccio, ha capito Giuseppe, è mio figliuccio, e glielo rimando io, ha capito. Ah, capo, sì, lo conosco. Oh, io sono stato un anno lì, alla passaggio di Bello, qua a Sorcio. Ah, capo, appunto perciò ci conosciamo abbastanza bene, no? Tanto guarda, tempi, magari potessero ritornare quei tempi indietro, fra, magari, avere la lira, no, non l'euro, no, la lira, che con la lira ci potevi campare molto di più. Sì, quello, guarda, non c'è il minimo dubbio, non c'è, però è tutta la situazione insieme che si è messa, che il lavoro è proprio, l'hanno ammazzato, lo Stato ha ammazzato il lavoro, dai, non ce n'è proprio, non ce n'è. Poi quelle leggi che ci ha messo in mezzo, tutte queste, diciamo, queste agevolazioni che ha dato alle imprese, poi, cioè, sì, ha fatto un casino, no? Ha fatto un casino sì, perché ci ha messo, diciamo, a noi, a culo terra, perché con l'euro, cazzo, proprio è come non è, hai capito, perché adesso le 50 euro valgono come le 25 venerie una volta, hai capito? Sì, ma in effetti è così, è vero. Guarda che io, Giuseppe, se non sarei entrato lì, sarei stato in condizioni tue, uguali identiche sarei stato. Perché se non entravo adesso io non è che ho 25 anni, né 30 anni, né 40 anni, ho 59 anni già. Ah, 59 anni, te ne eravamo molto di meno, fra. Alla voce magari, però insomma, sono vecchiotto, non sono sono giovanotto. Forse perciò, guarda, tu sei più grande di mio fratello, Nico è nato 11-3-59, fatti il conto, quanto sei grande. Vecchio. Insomma, siamo ancora col ciuccio. Invece, tu sei come la grande, la mia sorella, perché è del 56, hai capito? 56, 5 febbraio del 56, Lei c'ha 2 anni più di me. Dunque, su per giù siete coetanei, dai. Sì, capo, 2 anni di differenza ci abbiamo, dai. Lì di febbraio io sono di marzo. Ah, di marzo anche tu? Capo. E che giorno? 24. Vabbè, 24, sono... sei più grande di un po' di giorni di Nico. Figurati. Fai il conto, Nico è nato l'11-3-59, tu sei nato il 24. Ecco, sparito di nuovo, invece adesso è più vecchio di me. Io sono giovane, sono nato io. Sono piccolino ancora. Ciao Enrico, vieni quando c'è il motorino. Siamo andati io e due Pietro Bacio di Ferria, te lo ricordi Gianni? A voglia. A un circolo siamo andati, che? Se ci parlo di nuovo non me lo ricordo più. Però io, figurati, abbastanza svegliati, poco. Sono passate sacurane, sono passate, figurati, ero giovane, piccolino ancora. Io non ci ero già giovane ancora, ho passato quello che ho passato io, e qui io ho avuto il barattino a 14 anni, figurati tu, quanti anni ce l'ho da parecchio, adesso ne ho 49, ne ho figurati tu quanti anni so. E cosa vuoi sia? Noccioline fra. Ma se vuole, oh, Antone, se vuoi fai a scambio con me. Farà più bozzo, se trovo. Antone, ci rinzo, oh, iaia. Cioè, ce l'ho un giorno a baracchino, cioè. Oh, io sono vecchio ed è preso per i baracchini. Per i baracchini ormai. Allora, da quando ce l'hai tu? Dai, 74, settembre 74 fino adesso c'è il baracchino, vi ho detto quanti anni sono. Ero giovane allora, figurati, 74, siamo nel 2013, figurati quanti anni c'è il baracchino. Ce l'hai 3 anni prima di me. Sì, figurati, anzi prima di me c'era Falcone, la verità è. Falcone, poi c'aveva Mario Mao, la Buonanima, Gio Maria e gli altri che c'erano, Luisa, Sassari, poi Falconero di Sorso, vabbè, c'era un sacco di gente, poi c'era Sacramento, quando sono andato io, c'era gente lì. Era pieno di CV, pieno, poi c'erano tanti giovani e poi sono spariti anche loro, c'eravamo la motocarrozzera, c'eravamo a Venge, mi sembra, preso in macchina, e la motocarrozzera, figurati tu. Sì, capo, già me lo ricordo tutti, me lo ricordo. Aspetta, poi c'era Biancaneve, se la ricordi Biancaneve era Sassoli, ma avevo sentito sempre che era cieca quella ragazza lì. Io già me lo ricordo, Giuseppino Tortore, c'era poca gente, ma era tutto pieno. Tutto pieno dal canale 1 al canale 23, pieno, poi sono passato dal 1 al 40 e dopodiché piano piano da 40 siamo passati a 80, da 80 a 120, 200 canali, salivano su per fare l'amore, c'è cioè che si fuggiva con la fidanzata per quello che dire. Se la faceva la fidanzata, poi pensava magari anche con Nuzzo, perché prima parlava con lui e poi usciva con l'altro. Infatti era così, a parte Giuseppe. Scappa, e anch'io, sono, Antonello forse se lo ricorda da quando ero iniziato con il baracchino, e poi avevo smesso e poi ho ripreso neanche un paio di anni. Quant'è sono io, Antone, che c'avevo il baracchino? Un po' di anni, c'avevo il multiplo del 3, l'avevo dato io, figurati. Poi avevi smesso e poi è ripreso adesso, e niente. Non posso dire. Comunque c'era parecchi anni il baracchino, non è che non c'era. E tu mi sembra sei entrato nel 2000, se non mi ricordo male, o una cosa del genere. Perché c'è lo scupi giù che se non è ospite prima che mi faccia la pizza e cucù. Scappa, avanti fra. Ecco, tu pensa, io ho cominciato ho cominciato col faccio 2030. 23 canali, almeno quello lì, eh? Guarda, mi sono incappato dalla cioccolata all'iPod. Allucinante, per carità. Vabbè, la passione, quello, purtroppo, quando tanto è inutile me, cosa fai fra? Andoci senza lavoro, quello, a meno ti fai quattro chiacchiere, ti riversi così e passi il tempo. Così ho buttato a casa e solo a guardare sempre la televisione ed annoiato, non facevi nulla, non facevi questo, non facevi quell'altro e non ti passava mai il tempo. Invece quando ero alla stazione non avevo manco il tempo di modulare, io ho fatto un conto delle tacchette quando riuscivo al lavoro. Sì, lì sì, magari il lavoro che facevi tu sì è diverso, che quando uscivo da lì a lavorare, perché quel bar mi ricordo io lavoravo parecchio, lavoravo, era sempre pieno, era di cui che registrato il back. E lì naturalmente uscivate tutte stanche, sì, uscivate sicuramente, non avevate tempo di modulare di niente. Ok, vediamo un po' chi è entrato, avete il back. Buonasera a tutti, là, doppio rudo. Io me lo ricordo a Giuseppe che torna a Vialesi di mattina a fare colazione, c'era sempre lui di mattina. Chiaro. No, io guarda, se lo vedo magari me lo ricordo, però io conosco, io frequentavo parecchio quel bar lì, frequentavo lì alla stazione di Sassi. Ci conosciamo abbastanza bene noi e a voi, e quante volte abbiamo bevuto assieme, a voi abbiamo preso caffeina assieme, a volte, qualche mattina, andavo a venire al portone del tabacco. Ecco, e magari, va bene, avanti Gianni. Allora, io me lo ricordo perché prima viaggiavo in treno, a Porto Torres, prendevo il treno, anche se non coincidevano gli orari della stazione, poi mi toccava andare in vento, sa che è un casino, però all'inizio per risparmiare qualcosa viaggiavo in treno, poi in pullman, poi in moto e poi in macchina, ho fatto tutta la scala. Sì, la stazione più o meno l'abbiamo usata tutti. Era fatta per usarla. Alessio, avanti. Andate a portare a Scooby a fare la pipì. O Scooby a lui a fare la pipì. Mi sa che è lui che porta Antonello. Ma tu lo sai che con me Scooby è tranquillo, Giuseppe? Io l'accarezzo, mi chiedi da lì se lo accarezzo, mi scodinzola. Ce l'ho con te, se non si piaccia, come mai tanto non mi può valere, boh, ho capito. E non gli ho mai fatto niente, mai. Sarò al momento, e quando mi vede poi già si calma. A chi non può valere, a cosa? Come cazzo si chiama quello che... amico di Antonello, Mario Chigini, che tutta la volta cazzo che lo vede per quello che gli ha fatto, cazzo qua, gliene avrei tagliato le mani io. Non l'ha fatto. L'ha preso per coso, non so, quindi Antonello quando rientra te lo faccio raccontare cosa gli ha fatto col povero cane, qua. Non so cosa proprio gli ha fatto, però dice che Antonio si è incazzato, è giustamente che si è incazzato perché ha visto il cane suo, però non li fai così, che non lo prendi per la coda e lo sguardi alla testa, manca, cazzo, ti fa piacere. Bravi, avvatti. Che gente. E lui non gli ha detto nulla. Ma lui si è incazzato, ha detto vattene via da qua e non ci mette più piede, cazzo qua, se aveva me lo ha ciappato, avrei cotto due pugni a bocca, cazzo, e è uscito il non ammala. No, lo sai cosa volevo fatto Giuseppe? Dimmi fra. Ti ricordo per mezzo all'aria che fanno ieri, come ti ha fatto ieri a lungare e puttare un muro. Avvirumi, la parola a bocca me l'hai tolta, vabbè, comunque, vabbè dai, parliamo di altro. Stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo? Non mi ammetta, va, boh. Bisventiano della stazione. Ah, dalla stazione, erano altri tempi, c'erano più treni, c'era più gente allora, e noi eravamo poi, lì l'apertura, allora facevamo alle 4:30, perché doveva essere 5 minuti prima della partenza del treno che partiva a Cagliari, allora partiva alle 5:20, no? E dunque lì doveva essere 10 minuti prima della partenza, perché la gente giustamente doveva prendersi o il caffè o il tè, doveva fare la colazione, dai. E arrivavano giuste, quando arrivavano le fatte alle 4:30, e noi ogni giorno la facciamo fuori 1200, 1400, 1500, 1500, erano altri tempi. Ma di passo? Ega. E quando eravate? Però ve le portava Natalino, per passo, no? Natalino, poi c'era anche coso, Secchi, ce la portava Secchi, cioè un periodo ce la portate Secchi, poi altre particelle, però come tratto del padre di Natalino, veniva sempre lui la mattina, perché Natalino rimaneva in laboratorio a preparare pasta e ce le consegnava il padre di Natalino. E vabbè, adesso che il padre Natalino lavorava sempre a Roccarulia, mi ricordo, e loro facevano le paste e portavano. E vabbè, erano altri tempi, vabbè, altri conto. Penso che papà allora, alla colazione, quando faceva la colazione si mangiava e portava solo a posto lui quei cornetti vuoti per colazione, e se ne mangiava ogni mattina, se ne mangiava 12. E vai, cazzo, e già papà non ho mai visto mangiare pasta, oi, 12 cornetti vuoti si mangiava, cazzo, con una ciotta grande di quelle di latte, cazzo, ma proprio, guarda, qui a casa, quando si faceva la zuppa. Bocchinotti? Cazzo, era Bocchinotti. Qua, era tremendo mio padre. Non aveva il vizio di fumare, non aveva il vizio di bere, però quando vai sul ciume, oi, e da chi abbiamo preso noi? Magnerò io. Già, i dolci piacciono a tutti, però non ne devo approfittare io, a me i dolci piacciono, purtroppo devo andarci con la calma. Se poi c'è quella glicemia alta, bisogna che ti regoli. Appunto faccio che sto pigliando la pastiglia, dopo la cena, quella pastiglia lì, e poi la mattina per la pressione. Ti ha visto il diabetologo? Diabetologo ti ha visto? No, me l'ha detto la dottoressa, ma ecco, gli do anche la pastiglia per le cose, perché le ho portato i risultati del coso e non altri. Mi ha detto, gli do queste pastiglie perché quello si deve tenere a dieta. Ma tu dovresti fare la curva da carico, Giuseppe. Dici di farti fare la curva da carico. La curva da carico, che è un esame, ti danno il tabella del glucosio e poi ti misurano la glicemia per vedere se sta funzionando bene il pancreas. E adesso quando è me torna piovendo, adesso ci devo andare venerdì non posso, ci vado lunedì mattina, se apre, no, lunedì, dopo, apre alle 11 la signora. Non va giovedì sera. Ci vado giovedì, domani sera ci vado, faccio fare quella cosa che mi hai detto tu, ma adesso vediamo, tanto devo andare per ordinarmi le pastiglie per la cosa, per la pressione. Ci devo andarci anch'io domani. Speriamo non ci siamo di gente. perché devo ordinarmi le pastiglie, se no non ne ho. Io solo le pastiglie devo prendere, basta. Raga, fra. Senti. Sono del Roccio, sono noi, a scelta delle pastiglie, non mi chiede le pastiglie, non chiedo bene, certo tu. Che bello. Figurati, oh Giuseppe, da te ho conosciuto lì, no? Tutti quasi i CP, tipo a quello di Giorno, poi il tassista, poi c'era l'altro Antonio, che era tassista stesso, e una greppa, una marea, la ci ho conosciuto in vivo. E Alessandro è conosciuto Alessandro, Antonio, poi è conosciuto a Francesco Magnamocca, poi è conosciuto, aspetta come cazzo si chiamava l'altro, che era sempre CB, però non mi metto il nome, ne è conosciuto lì parecchio, è vero che a parte la mia l'altro è il nome, ma loro ce l'avevano un doppio di antenna. Capo, guarda, il giorno siamo venuti da te, abbiamo fatto l'appuntamento, eravamo almeno una trentina, venire. E pure un coso, come si chiama, quello che forse portava le parti. Natalino, vedi? Esatto, Natalino, vero? Natalino Alfa 1. Lui c'erano altre due che non mi ricordo il nome nativo, che erano cantonieri. Ho capito. Nel periodo c'era anche Coso, stavo frequentando con me, stavo frequentando anche Tonino Cavalzacchi. Esatto, c'era Tonino Cavalzacchi, quindi una scelata, una trentina era, mi era lì, siamo venuti a mettere. E già un gioco. Ma sapete la cottura, fra. Cottura, insomma, avevo un rito, ma poi che avevo abbondante, cioè a bere già piaceva allora, però un po' di clienti via mi rimane in matessa, anche se non rischiava la patente come adesso. Appunto perciò, ma allora potevi permettere di invitare qualche amico al bar, perché la cosa costava di meno. Ma va, non fa, perché dentro un bar, quindi una cosa, fai 2G e ti passano quelle 50 euro. Adesso sì, prima io sto parlando, eravamo in lira allora, eravamo, poi prima era diversa la situazione. E anche se eravamo in euro, gli altri erano difesi, non adesso. Però già. E poi quando si entra in amici si guardano queste cose, uno fa un giro, lo fa l'altro e via. Solo che da voi quando devi guidare se sta cazzani o io. Sai cos'è già? Prima non c'era questa legge qua. Guarda che noi la polizia ci ha buttato fuori la sassa. No, eravamo io, non ti so se ti ricordi Pietro Braccio di Ferro, che adesso è deceduto, è morto, e altri due amici, c'era mio cognato e un altro, c'era un altro amico, e stavamo rientrando da uno spuntino, siamo andati a Sassa, e avevamo usato una musa di Aghina nell'emiciclo, tutti noi che abbiamo trovato, non abbiamo nessuno, non so se lo conosci quello lì, l'avevi visto. Proprio entrato, detta Iardini, con la via Nessì, avevo fatto a cui un faro, arrivi la polizia, a com'è il Iardini? No, io non ho mai avuto l'onore di andare a Finocchi, non lo conoscevo. Io me ne ricordo solo uno che seguiva Torribigio, quando ci vado al ristorante, via l'Italia, questo qua lo bisciglia. E ce l'ha detto. Abbiamo fatto macchina 1, macchina 2, macchina 3, tre marigato verso San Pietro, poi ho fatto testa a coda, l'ho bloccato. L'altro ha bloccato la Darido e avevo detto, perché segui sempre l'amico mio? No, io sono un amico mio. E cos'ho? Adesso paghi il biglietto. L'abbiamo fatto cagare sotto dal giorno, dice non c'è più andato, non mi si chiese perché non riusciva, dove se mi piaceva, tu il bicio, e lo perseguitava sempre. giro per questi cimenti. Noi siamo andati per i 20 a fino a me prima che volasse. È venuto lui da lui. È avuto la mano giusta. Quante volte sono andato, ho abbassato il microfono e l'ho fatto sentire a tutti. E mi ha detto, ciao caro. Io, ascolta, quanto è che prendi? Tutto quanto in diretta, ho fatto sentire al microfono. C'è cosa più bella che questa. Ieri quando si andava a Fruttigli, là, che poi ci pensavi, si bovaracci. Andavamo a fare ascolto e allora al prostituto e cose. Quando c'erano i giardini. Ecco. La voce, ragazzi, che abbiamo visto, meno male qui, c'erano due poliziotti di sosso, cioè, che si conoscevano, le tante di ville, e arrivo. E se avete fatto male, non so, questa volta finita. Sì, diciamo che anche le patrulle della polizia già si affiancavano le prostitute, stavano notte parlando lì. Io me lo ricordo perché quando facevo seguito ambulanza che tornavo di notte, li vedevo sempre affiancate le prostitute, a bidelli, ridelli, non è a dire gridare contro lenni. Sì, vabbè, e cosa devono fare anche loro? Magari le ricontrollendo una volta di lui. E quello che andava ai pizzi, che gli chiedeva i soldi delle prostitute, le minacciava, gli chiedeva i soldi per affidare una stufata e l'ha denunciato. E non era un maresciallo dei carabinieri di Butudoro. Ma questo non l'ho mai sentito. E io sì, però. Infatti ce l'ha mandato via. E ne approfittava, faceva la tessera, si faceva dare i soldi, tutto quanto, come se li stesse sequestrando, no? E da qui si intaccava io. Un maledetto mio. Adesso vogliamo un suo. C'era delinquente. Un comandante mi pare che fosse, una cosa un pezzo grosso. Chi, secondo te chi lo fa queste cose? Dico che questi grossi non lo fanno. Ah, ma non viene più no di bici, prima aveva tutta la fila con le sedie di plastica. Non lo so, perché sono da molto che non ci passo più. Oh, non lo sai che neanche l'estate ci sono passato la sera lì quando rientravo da lavorare. Non ho più fisica. Faccio solo i vidriazzi, no? Eia, sì, sempre quella facile, più facile, no? Però l'estate qualche volta mi facevano anche la marina. Però quest'anno non ho fatto niente. Io lì alla marina di Sosso ho visto questa erba così verde, ho detto, caspita che bene che lo tengo nel prato a Sosso, della rottatura, invece è erba di quella sintetica. Beh, diciamo le pettinate nel lavata. Tanto l'hanno rasa, sembra prato vero. Oh, caspita che bel prato è quest'erba, sai, ti fai queste cose viaggiando, no? Quando le vedi, caspita che bella erba. Poi guardo bene, cazzo, erba sintetica, non vi grido. Se non ci dici l'occhio, noi ci vede tanto. Se a me il figlio fa ingannare, no? Io non so cosa si ha fatto, non so. Beh, non fare di là. E invece era sintetica. Giuse. Non so se Franco ci ammetta Annibolo, te la metti fra? A chi? Annibolo. No. Ah, quello che se ne va a stazione, che aveva le orecchie a parafango, a te la metti, a scivolo. Parava. No, parava a posto, che ha vestito il tram in Viale Dante. Ah, Alberto. Ehi, il naso a tipo il muto. Figlio. Dimmi Giuseppe, se avevi visto di... Vai a pigliarmi quella caccia di aranciata in magazzino. Sì, dopo mi darò una birra e dopo ti do una birra. Va a prendere la cosa, la caccia di aranciata. come scende giù, cazzo il figlio, e butto un magno dentro, cazzo, mi ha incantato. La madre sua, brutto coglione, scotta fa culo, ma te la fa culo. Ehi, capo, ma cosa, che ci vedrà? Era un facchino di tutti, era in ghiro. Va, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, dicevi, vabbè, ci vai a pagare. Ecco, allora, mi fidavo più a lui che pare, ti hai capito? Sì, vabbè, quello magari sì, che cioè, era un tipo così, infatti io pensavo che era un, ho sempre pensato, che era uno che non aveva nessuno, che rimaneva lì e lo aiutava. No, no, e poi aveva una casa di fronte alla stazione, che allora c'era un negozio alimentare lì, da Pavetto, e lui abitava sopra noi, quello di fronte dove c'era il dopo viario, e lui abitava lì. E tutte le volte quando dovevo chiedere un favore ci andavano, ma su quello, ma c'era una volta gente che lo prendeva per il culo e qua là, e mi girava un po' le scatole. Quello io non è che l'ho mai, lo vedevo sempre lì. L'unica cosa che prendevamo per il culo era quello che c'era l'emiciclo, la Befana. Tanto lei, conosci da Rex? Cagnazzo. Eia. Ma sta già buciutora. E sa che c'era il culo che tramonta in giro, sanzio. E buciumare pure. Lo so che è portato Torres adesso. Ehi, c'è parecchi anni adesso che è portato Torres. Egna, ti ha fatto lo spazzino, eh? Egna. Ehi, se lo vengono entrati a me, all'emiciclo, entrati a me, lo guardi, lo sembra lì, se lo entrati a me. Dove dire, ma che fa? Ehi, si salta la nata, ma che cazzo che ti ha fatti? Una volta che hanno trovato la giostra la mattina, che era vicino a casa, la viene abbassato i pantaloni, il treno, di abbassato lo sbarco, tutto canta da nata. Quello lì, ma gli amici che ci diverti bravo. Quello che mettono attorno alle gomme dell'autoscontro. Sì, ho capito. E tutti che rientri, che altro Salvatore, mi dice qua, ci dice una netta, se lo so se è morto. Io non ho visto più come per lui, eh. Te l'ho detto, ricoverato, l'hanno pure operato la testa. Oh! E allora che c'è mai? Posso mai, è l'agnuraglio, il ritardo. Di volte mi lascia sempre male. Sì. Quando era in sasta gli veniva a dire un esempio che si negozi, si capazzava e che si manda non riuscivano a vendere la giornata. E c'avevo un scarpano, carbus. Avanti Giuseppe. Mi sto guardando un programma a media 7, quello là, cazzo di questa qua, che le stanno intervistando quelle delle Iene, cazzo, tutte nude, cazzo di tronco di canna, Su che canale? Media 7. Media 7? Media 7. Ma 5 e 1 cos'è? Quel programma che fanno vedere alla televisione, che tirano la replica, cioè i programmi che danno a canale 5, rete 4, e qua media 7, perché c'è media 1, media l'altro, media l'altro. Chiedi tu, Franco, quel programma. No, aspetta, allora, media 7 è l'azienda, poi media 7 1, media 7 2, 3, 4, 5. E io qua ce lo so, media 7, perché c'è media 7, media extra, hai capito? Quello lì. Ah, media 7 extra è... già. Buona, io vi saluto da che me ne vado a letto. Ci sentiamo, buonanotte a tutti e buona continuazione. Ehi, ciao. buonanotte, buon tutto e ci ascoltiamo per le prossime. Ciao, già, buonanotte e una buona giornata per domani, dai. Avanti, Fra. Giuseppe. Fra. Dimmi tutto. E allora, vabbè, a ricordare i vecchi, vecchi tempi, erano belli. Allora, come ragazzo, allora, se mi eravate sicuro mi conosci, ormai già conoscivo a te, però io sono, mi sono ingrassato un po', beh, ero magro magro allora. Ehi, cappa, ma non è che tu c'avevi i capelli, prima no, c'avevi i capelli ricci, ricci. No, no, no, niente, niente ricci, sempre ricci. Ascolta, io c'avevo una 127 blu, allora, quando venivamo da te, una 127 blu con la antenna nera, una frusta nera al centro cappotto. Ah, ho capito, già, adesso già, già mi sta venendo in mente adesso. Poi c'era l'amico mio che c'aveva il fuoristrada del Santana con l'antenna sempre al centro, davanti, là. Ho capito, ma le stai più sentendo a loro, sì. Non c'è più nessuno, cioè, a Natalino l'ho sentito da poco, l'ho sentito, poi è sparito e non l'ho più sentito. E gli altri no, no, più a nessuno. L'amico mio dice tutto, dai, Pietro, povero Pietro dice tutto, abitava vicino a me. Ah, cappa, non lo sapevo, quello non lo sapevo, da molto. Sì, sì, un po' di anni fa, dice tutto, vabbè, era malato, Ah, cappa, vabbè. A ricordare tutti quanti gli amici che avevamo lì, certo, qua, se ci eravamo dati in su, di cazzo erano meglio. Sì, ma tutti proprio le vecchie civili, cioè, sì, tutti questi che sto sentendo adesso, a voi, quanti, se siete dei vecchi civili, solo che tutti quanti avevamo una ruota, avevamo, chi ce l'aveva Sos, chi ce l'aveva Sassari, capito? E, diciamo, con Sassari parlavamo un po' di meno, perché qua non si poteva parlare, perché di quanti ce n'erano non riuscivi a parlare perché ti facevano abbattimento, un casino, chi ci aveva mille, un chilo quattro di lineare, chi aveva 200 watt, e come facevi a parlare? Allora io quando ero in campagna, quando avevo la campagna giù, avevo il baracchino anche giù io, no? E c'avevo un liare, cazzo che è abbastanza grosso, che un valvolare, cazzo, non so quant'era, era mille passato, cazzo, come accendevo quello lì, cazzo, dove il contatore della luce segnava il doppio, cazzo, anzi il triplo, per, anche mio padre, cazzo, si incazzava morta. Ma oltre che cazzo a rompere i coglioni con quella roba lì, adesso prego, cazzo, cazzo te lo butto giù dalla finestra. Vabbè, guarda qua ce n'era uno, c'erano due fratelli, due fratelli che avevano veramente i soldi, però sono nati già quei soldi con quei ragazzi lì, sono nati. E ti dico una cosa, e ci hanno preso delle belle ricitrasmettenti, quel baracchino ci hanno preso, alla poi ci hanno imbigliato, lì era un chilo qua, ci hanno imbigliato. Vai da, quando entra via niente non capiva nessuno. Giustamente, io dico questo, a cosa te la prendi a fare questa cosa quando non lo puoi utilizzare? L'importante è che un baracchino normale 5 watt ce n'è anche per i pulci, non c'è bisogno di mettere in aria qua, là, ma cosa ne fai? Quando ti sentono un po' dappertutto, a voglia, non mi è mai piaciuto a me mettere in aria a casa, perché no, è una cosa, perché devi stare ben attento che la cosa lì, no, no, qualche falso contatto, non si bruci qualcosa, tanto c'è il rischio che si incendia la casa per un falso contatto. Sì, vabbè, l'importante è sapere cosa stai facendo, quando c'è una roba del genere, ma le cose poi se le devi spegnere anche a casa, non è che quando le usi. No, guarda, io ti dico una cosa, io anni fa, prima di mollare, facevamo delle QSL, insomma, noi parlavamo, ma sai quante QSL facevamo, contatti che facevamo con a pure, era micidiale, ci bastava solo scelto un matto in banda laterale, in invasiva mi ricordo, insomma. E invece adesso io non mi attira più a fare più così, mi piace parlare più così che pure. Beh, giustamente, perché ormai qua, cioè, ormai questa cosa qua di fare le guerre fuori è diventato tutto un casino, perché a parte perché non riesce bene a prendere la ricezione, seconda cosa, comunicare c'è troppo casino, e diventare canali che dove ti possono permettere di parlare, capito? Capo, no, anzi adesso casino non ce n'è, adesso che le puoi fare, infatti non le sto facendo, prima c'era casino, e su 40 canali erano tutti occupati i canali, tu avevi 80 canali occupati c'erano prima, non è come adesso, no? Adesso tutti i canali sono vuoti, insomma, ma adesso che puoi parlare, tu qua, però tu non mi dire più di qua, e se vuoi io li faccio, perché... Guarda, la posizione mia non è tanto malvagia, Io ho una bella posizione, Ah, ho capito. Ma tu sei dentro Sorso oppure la periferia di Sorso? Io sono nella periferia, la zona più alta che c'è, verso Senoli. Ah, verso Senoli, ho capito. Proprio l'uscita di Sorso. Capo. Io dove piazza? Io ho l'antenna in basso adesso, nel terrazzo grande. E ce l'ho in basso. Se io la devo tirare su, devo mettere un altro palo da 6 metri, devo mettere. Come mi metto quel palo? Vedrai che cambia, tutto cambia. Giustamente, quando piace la cosa in alto, c'è più guadagno, c'è più ricezione, c'è tutto, capito? Io c'ho un muretto fatto a tipo scivolo, no? Dall'ultimo piano, c'è questo muretto, io gli ho fatto due buchi e il palo dell'antenna gliel'ho piantato lì, però è fatta così perché sul tetto non posso salire perché non hanno, quando hanno costruito, si sono dimenticati di fare la boccola per agire sul tetto, capito? Ecco, tu pensa che io facevo, noi facevamo qua la sorsa, anche io, la ruota sia Olmedo e Alghero, con Olmedo e Alghero, la ruota uguale come la facevo con Sassari. Ho capito. Vabbè, è per quello che io ho detto che bisogna farla rinascere nuovamente questa 27 perché sta morendo e far ritornare tutti quanti i vecchi CB, perché almeno sai che ci sono, ti fai quattro chiacchiere, ti fai quattro risate, parlate più del meno e tira lì, hai capito? Ma adesso con chi lo fai? La gente c'ha il telefonino, c'ha il computer, c'ha quello, c'ha quell'altro, se ne sta stufando di entrare nell'apparato, hai capito? Sì, quello sì. Sì, vabbè, sai cos'è Giuseppe? Secondo me qualcuno magari rientrerà, ma non ci metto la mano sul fuoco, perché se no a quest'ora sarebbero entrati, come sono entrato io. A me perché mi piaceva che sono rientrato. Perché io un giorno stavo riguardando sulle mie cose in magazzino, nel mio magazzino, un magazzinino che c'ho. Ho visto un baratino, un Intec, addirittura quello sottile, sottile, un piccolino. Ho visto. Ma sono provoca, l'alimentatore ce l'avevo, perché l'alimentatore non l'ho mai dato, tutto mi avevo venduto, ma in cura dell'alimentatore, quello da 30 ampere, quello non l'ho mai dato, l'ho sempre tenuto, infatti ce l'ho qua, e ho detto, ma e ce lo provo a vedere se funziona, ho provato e ha funzionato, c'avevo una mini Grand Prix, poi piano piano giù, ma prima non sono rabbiazzato. Anch'io, allora, io quando sono venuto qua, che avevo la cosa, prima non avevo soldi per potermi piantare l'antenna, e ho incominciato con, sempre, tramite Antonello, Pupugno. Allora, la prima cosa che io ho pensato, io ho piantato una canna da pesca, poi dalla canna da pesca un bumera, dalla bumera la Grand Prix, e poi la Grand Prix, grazie a Dio, tramite altre persone mi hanno regalato questa antenna e tutti l'hanno avanti così, hai capito? E prima poi avevo la cosa, la Ringo, e l'ho presa, l'ho regalata, l'ho data a Natalino Alfa 1, ma poi cosa, la buona di Mario Mao mi ha regalato questa BL 20 centelle e con Antonello il palo me l'ha data lui e l'abbiamo piazzata, grazie a Dio, grazie a lui posso dire che sto nuovamente modulando. Ma guarda, io qua sopra c'ho un altro baule adesso, questa qua, aspetta, cazzo, che sta andando oltre l'alimentatore, eccolo qua, volando oltre 15 stava andando, sono bruciato tutto. E questa antenna che ho adesso, che sto montando adesso, un giorno sono sceso da un amico mio, da Bannino, non so se penso che l'hai sentito in frequenza, è un radioamatore, mi ha detto, ci può avere una su Neo buttata, ed era proprio due scamari, abbiamo recuperato, perché te c'è la nella parata, trovata, ci ho fatto un po', una vedita, siamo qua, e sono con Puzio, l'avevo recuperata, l'avevo piantata e le andate. Le cose vecchie sono meglio delle nuove, capito? Sono meglio delle nuove perché è come il discorso della roba, là, è come il discorso del lavoro. Se la persona anziana ne sa meglio del giovane, e così sono le antenne, no? Perché le cose, le antenne vecchie rendono di più di quelle delle nuove. Ecco. Ma perché c'è il proverbio gallina vecchia va buon brodo? Perché il coso è molto più matura, capito? La gallina quella là, vecchia, è più matura, come quello lì, il discorso è quello. Capo Giuseppe. Va bene Giuseppe, dai, cazzo di mezzanotte. Io mi sa che me ne vado tutto a nanna, sono a mangiare, così mi devo pensare alle 6 e mezza. Poi mi cattano un buco, mi cattano. Va bene, dai Giuseppe, a che giorno già capita, ci vediamo, no? Sì, ce ne riascoltiamo, dai, buonanotte, buon tutto. Io faccio quelle di perché faccio un buon risonno. Va bene, fra, ti auguro un buon 144, un buon trabacco per domani e ce ne ascoltiamo tutte le prossime e quando capiterà il discorso di vederci verticale non ci sono problemi, al limite quando ti capiti di mattina ci beviamo una cosa lì al bar che c'è lì all'angolo di via Pascoli di fronte alla Cisa, non c'è nessun problema. Sì, va bene, dai, se capita un giorno, già non so problemi, non ci sono. Per adesso radio in macchina non ne ho perché non ho il buco capotto. ci sentiamo, ciao Fra, buonanotte. Ehi, ciao, buonanotte.